The prison of madness here. Per chiunque sta male conosce l'inverno freddo come un cane, 365 croci da portare. Per chiunque conosca la solitudine più della madre, perché è costretto solo da una malattia mentale. Per loro andrà la mia musica, perché ho sofferto come loro, Alda Merini. Per loro, dopo che sarò morto, ogni mio provento, qualcuno volò sul nido del cuculo. Per chiunque sta male, Alda Merini. Per chiunque sta male, Alda Merini. Che la mia opera serva a riaprire i cancelli del bigottismo e del silenzio intorno a noi, e a quelli che vivono a stento, noi eroi e santi, non da bruciare ma da amare. Io sono il figlio del male e cerco un nuovo bene che mi possa scagionare, e che la mia voce sia anche la vostra, universale, universale, la voce universale. Risvegli. Per chiunque ami e non riesce a spiegarlo a parole, vanno tutte le mie rime come guarigione. Risvegli. E anche voi cercate di amare quel vostro amico rimasto solo, non è un poveretto ma solo un essere umano da viziare. Risvegli. Se può essere utile, se può essere di nuovo fertile, un uomo alla vita, che cresca di nuovo il ramo della malattia e sbocci un fiore al profumo sacro dell'amore. Risvegli. Che sbocci un nuovo fiore sacro dell'amore. Che la mia opera serva a riaprire i cancelli del bigottismo e del silenzio intorno a noi, e a quelli che vivono a stento. Legge basale. Noi, eroi e santi, non da bruciare ma da amare. Io sono il figlio del male e cerco di nuovo il bene che mi possa scagionare, e che la mia voce sia la vostra universale. Che la mia voce sia la vostra universale. Inverni troppo freddi in quel repartino, ho conosciuto le galere della detenzione sforzata come un animale da abbattere. Siamo l'esercito delle 12 scimmie. Ho lottato con tutto il mio carattere, e per chiunque solo dentro di sé è rimasto va tutto il mio calore. Siamo la rivoluzione. Inverni troppo freddi in quel repartino, ho conosciuto le galere della detenzione forzata come un animale da battere. Siamo l'esercito delle 12 scimmie. Ho lottato con tutto il mio carattere, e per chiunque sono dentro di sé rimasto va tutto il mio calore. Siamo la rivoluzione. Girl, love us. We are mad for a reason.